vicino ai 50 e mi sento un po' più saggio. E tu non lo diresti, visto l'ultimo tattoo. Sarà una mia impressione o forse qualche info. Qui nella mia visione questo mondo fa schifo, ma si va avanti senza farsi domande. A volte è meglio non sapere, ritrovandosi in mutande, in stato confusionale come i ricordi di Foggia. Spendi come i colori di una foto nella pioggia, perché la libertà che ha un prezzo non è libertà. Sempre più spesso qui si lascia la città, quindi può darsi che la vita faccia schifo. Ma che spettacolo quando vince tu fai il tifo, per quello che ci viene dato, perché hai sudato. Non è tutta merda se lotti da soldato, scegliendo le battaglie, alcune vinte ed altre perse. Ne cucino le frattaglie in ricette ormai disperse. Questo mondo fa schifo, se lo guardo in negativo, per questo faccio il tifo. Cambio il modo di guardarlo, perché il mondo in cui vivo, il mondo in cui vivo, è il mondo in cui vivo. E mi accorgo che posso cambiarlo. In culo che ti credi sulla giostra, se non vedi in futuro è solo colpa nostra. E guardatevi sempre alle spalle, i pugnali fanno male come i calci nelle palle. Perché cercare un amico e caccia il tesoro, allora segui gli indizi per arrivare a loro. Coloro che possono fare il bello ed il cattivo tempo, ci crediamo che ci sia ancora tempo. E respiriamo la paura come aria pura, cresciamo diventando adulti ma la strada è dura. Perché nessuno è sincero, nessuno è vero, vince chi vede il mondo a colori e non in bianco e nero. E vede il passato nello specchietto retrovisore, verso un futuro fatto di pace e amore, portando via la spazzatura che nessuno vuole. Mi sporco le mani, faccio io la parte del terrone. Questo mondo fa schifo, se lo guardo in negativo, per questo faccio il tifo. Cambio il modo di guardarlo, perché il mondo in cui vivo, il mondo in cui vivo, è il mondo in cui vivo. E mi accorgo che posso cambiarlo, cambiarlo, cambiarlo.